5C. Ascolta e trasforma. Perché non desti le chiavi a Luca? Perché non deste le chiavi a Luca? Quando desti l'invito a Mario? Quando deste l'invito a Mario? Perché non desti quell'esame? Perché non deste quell'esame? Come mai desti tutti i tuoi risparmi a Gianni? Come mai deste tutti i vostri risparmi a Gianni? A chi desti il tuo indirizzo email? A chi deste il vostro indirizzo email? A che ora desti l'appuntamento a Maria? A che ora deste l'appuntamento a Maria? Non gli diedi fiducia. Non gli demmo fiducia. Diedi il mio passaporto al poliziotto. Demmo il nostro passaporto al poliziotto. Diedi a Giovanni un buon consiglio. Demmo a Giovanni un buon consiglio. Diedi a tutti un regalo. Demmo a tutti un regalo. Diedi l'esame dopo le 6 di sera. Demmo l'esame dopo le 6 di sera. Diedi una buona notizia agli amici. Demmo una buona notizia agli amici.